Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Stabilimenti balneari aperti anche in inverno, con spa, palestre, negozi e la possibilità di stare in spiaggia beneficiando dell'effetto terapeutico del mare, che nei mesi freddi è maggiore. Il tutto senza la dittatura della tintarella. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti che abbiamo realizzato nel corso di uno degli eventi di riferimento mondiale per il settore della ceramica, evento di settore appunto, che si apre però a riflessioni trasversali che possono interessare, come in questo caso, aziende, amministrazioni, servizi e consumatori finali. Non solo, non più solo porchetta e salamelle, il cibo di strada ormai punta all'eccellenza, alla riscoperta di piatti della tradizione di un territorio o alla contaminazione tra culture gastronomiche. È una vera e propria street food mania quella che vede muoversi in giro per l'Italia pizze, piadine, gelati, ma anche hamburger di chianina, kebab al cioccolato e specialità vegane, come racconta il primo festival interamente dedicato al cibo di qualità su ruota. Per Bikeology, la nostra finestra sul mondo della bicicletta, parliamo di ciclisti urbani. Provate già a riconoscervi nel tipo di pedalata: militante, intermodale, hipster oppure della domenica. E poi, se siete alle prese con il cambio di stagione negli armadi, vi anticipiamo: le tendenze dei prossimi mesi sono quelle viste sulle passerelle di Milano Moda Donna. Consumi e bene comune, infine, il tema della nostra riflessione finale, che traccia il cambiamento in atto nel mondo dei consumi. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Un concetto che il pensiero non considera, cantava Loredana Bertè, un'idea che invece ora qualcuno inizia a sostenere, soprattutto perché il mare d'inverno può diventare una risorsa per la nostra industria del turismo, se ben declinato. Ad aprire gli occhi su questa prospettiva, una mostra in scena a Cersaie 2014, Cersi Italian Style Beach Concept, che espone soluzioni per godersi in pratica il mare anche fuori stagione. Abbiamo visto lettini coperti di plaid di lana, poi spa, braccieri nella sabbia, pavimentazioni flottanti, strutture soprattutto flessibili, quindi facili da smantellare al cambio stagione, in una parola sola, sostenibili dunque. Angelo Dall'Aglio è uno dei progettisti e curatore della mostra, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, 1200 metri quadrati di spiaggia in doppia versione, per così dire, estiva e invernale. Come nasce questa visione, soprattutto per stimolare quali riflessioni? Sì, il progetto è nato a quattro mani, perché l'ho fatto con Davide Vercelli. Il nostro intento era fare vedere appunto come una delle potenzialmente le più grandi risorse d'Italia, che è il mare, non sia sfruttata. Potenzialmente potrebbe essere una delle prime fonti di PIL del nostro paese. E invece ci sono migliaia e migliaia di metri cubi all'abbandono nei nostri arenili, il che non ha senso. E quando sono sfruttate in maniera anche molto impattante a volte. Ci sono ancora cabine in cemento che sono lì da 60 anni. Quindi fare vedere come è incordata in rete, le aziende italiane possono esportare un format all'estero. Siamo un paese di 7.800 km di spiagge e dobbiamo poter utilizzare in maniera sostenibile questo patrimonio. Questa formula del mare sfruttato anche in inverno degli istituti balneari ha le sue radici nella tradizione italiana, molto dimenticata, ma sì, c'è. E anche forse penso al nord Europa. Sì, noi abbiamo avuto lunedì pomeriggio uno scrittore che si chiama Alessandro Sistri, che l'abbiamo invitato perché ha scritto un bellissimo libro che si chiama Spiaggia, nel quale faceva vedere appunto come dal 1700 in poi il mare era utilizzato a scopo terapeutico, sia d'estate che in inverno. E questo ce lo siamo dimenticati, ci siamo dimenticati come all'inizio il mare era comunque qualcosa da tutelare ed erano tutte strutture che venivano montate e smontate velocemente. Noi non abbiamo fatto altro che riprendere questo concetto. Grazie ad Angelo Dall'Aglio. Grazie per esserci venuto a trovare. Grazie mille. Il nome Dim Sam a Go Go è un gioco di parole tra Dim Sam, che significa bocconcini, e Sam, la versione coreana del taco. È una combinazione di gastronomia americana e coreana. Si scioglie in bocca, è tenero come il burro. Di solito sono entusiasti. Pasta fresca di alta qualità per strada. L'hai quasi finita. Oh, scusa. Con tutto quest'ottimo cibo presto dovranno chiamarlo furgoncione, vista la quantità di carboidrati. È arrivata anche in TV la Food Truck Mania, questo era Eat Street, altre volte abbiamo citato Unti e Bisunti con Chef Rubio, l'indicatore di una tendenza globale che si sta radicando anche in Italia. A contraddistinguerla la qualità dei cibi da una parte e dall'altra il design dei camioncini, dalla riscoperta dell'ape piaggio a vere e proprie cucine itineranti. Una tendenza questa che inizia ad avere anche i suoi eventi di riferimento come lo Street, scritto come crasi tra Street e Eat, lo Street, dicevamo, Food Truck Festival, che si chiude domani a Sesto San Giovanni nel Milanese. Oggi le vere rockstar sono i cuochi, ci dice l'organizzatore Claudio Trotta. L'idea nasce dal fatto che nei cromosomi miei di Barley Arts c'è sta il fatto di organizzare, noi da 35 anni organizziamo di tutto nel campo dello spettacolo, quindi musica, grandi concerti da Bruce Springsteen, festival e quant'altro. Ecco, io credo che negli anni 2000 le rockstar non siano più tanto quelle della musica, ma siano i cuochi, siano quelli che fanno da mangiare. Sicuramente per quanto riguarda gli chef stellati e gli chef famosi televisivamente, a mio parere c'è la possibilità che lo diventi anche per questi fenomenali personaggi che si sono inventati nel mondo, perché è un fenomeno mondiale, il fatto di andare in giro su ruote che possono essere una bicicletta, una motocicletta, un camion, un autorimorco, un ape car o quant'altro, e fare da mangiare e venderlo, il che per l'amor del cielo è una cosa antica quanto il mondo, però la differenza sta nel fatto che non è uno street food difficile da digerire, insomma un po' di qualità discutibile, ma è eccellenza, quindi quello che abbiamo creato è un festival di eccellenza su ruote. Tra le specialità on the go, per così dire, abbiamo scelto Monaca, scritto con la K, cialde di pasta di riso giapponesi e gelato. Marco Noseda. È un prodotto alternativo al gelato comune. È nato da un viaggio che io e mia moglie abbiamo fatto in Giappone durante un viaggio di notte. Abbiamo trovato queste due cialdine di riso che normalmente i giapponesi usano riempire di pasta di fagioli rossi e abbiamo pensato, caspita, in Italia abbiamo un gelato, anzi abbiamo il gelato, lo mangiamo da più di 200 anni nello stesso modo, cioè col confetto o cono, e abbiamo pensato di inserire una pallina di gelato tradizionale italiana rivisitata nei gusti giapponesi, quindi proponiamo tè verde, sesamo nero, vaniglia e azuki, chiusa tra due cialde di riso, sono molto croccanti e molto soffici. È come se fosse un piccolo panino di gelato. Quindi avete fatto incontrare Oriente e Occidente? Esatto, perché pensiamo che è il giusto equilibrio per dar vita anche dei prodotti alternativi ai prodotti tradizionali, mantenendo comunque un gusto italiano, utilizzando però anche materie che arrivano da Oriente, insomma. Bycology. È tutto dedicato al ciclista urbano, l'appuntamento di oggi con Bycology, la nostra incursione settimanale nel mondo delle due ruote, ma attenzione, c'è ciclista urbano e ciclista urbano, come rivela una ricerca firmata Squadrati, diletta Sereni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Partiamo subito dai profili di ciclista urbano che avete evidenziato. Sì, dunque, allora i profili sono i velorussoners, i biker workers, i fissati e, quarta tipologia, i principianti o dilettanti. E da lì deriva tutto un modo diverso di vivere la bicicletta all'interno della città. Esatto, ad esempio i velorussoners sono quelli che ritengono la bici un mezzo di trasporto superiore sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista etico e sociale, quindi sentono un forte senso di appartenenza alla comunità dei biker e si impegnano al miglioramento della vita del ciclista. Pensa ad esempio a tutti quelli che frequentano le ciclofficine, perché molto spesso sono anche quelli più consapevoli sul funzionamento e i meccanismi della bici, quindi magari capaci di aggiustarla o costruirsela da soli. Poi ci sono i biker workers, sono banalmente quelli che usano la bici per gli spostamenti quotidiani. Non necessariamente la vivono come forte elemento di identificazione la bicicletta, però hanno visto che gli conviene dal punto di vista economico o di risparmio dei tempi. È una scelta razionale ma basata su un ragionamento di praticità. In questa tipologia, ad esempio, ci sta tutto il segmento dell'intermodalità, per cui persone che fanno un tratto in treno, un tratto in bici, oppure un tratto in auto e un tratto in bici. Terza tipologia, i fissati, li abbiamo chiamati così per richiamarli a un tipo di bicicletta molto preciso, che è quello a scatto fisso, e invece per loro la scelta della bici è fortemente simbolica e hanno anche una meticolosa cura dei dettagli estetici del loro essere biker. Tra le frasi citate nel vostro strumento di analisi, che è il quadrato semiotico, lo abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook così tutti possono andarlo a vedere, a questo riguardo, quello dei fissati, leggo: dormo con la mia bici fatta su misura. Esatto, sì. Diciamo che la esibiscono con orgoglio, il resto del tempo questa bici sta in salotto perché è talmente preziosa, è una vera e propria opera d'arte, quindi se la proteggono e se la cullano anche di notte. Sono i più vanitosi, ecco, se vogliamo appunto prenderli un po' in giro tra le tipologie di ciclisti urbani. E poi ci sono i principianti. Infine ci sono i principianti, che se vogliamo sono anche quelli maggiormente rappresentati da un punto di vista numerico, sono i soft user della bici, quindi non vanno in bici regolarmente, ma magari in alcune occasioni, soprattutto protette, quindi quando c'è poco traffico, la domenica, sono quelli che vanno in bici in gruppo e in momenti di svago. Però la cosa interessante di loro è che, pur non essendo ciclisti convinti, subiscono il fascino di questa dimensione del ciclista urbano, che passa per festival, blog, eventi locali e che sta diventando sempre più appealing anche per i non ciclisti. Un forte elemento simbolico o meno di condivisione, di coesione per una community? Beh, sicuramente è un elemento di connessione forte sia con la città, perché hai un rapporto molto più forte, più immersivo con le strade, con la città, ma anche di connessione sociale. E appunto uno degli elementi che abbiamo considerato noi per articolare queste tipologie è il grado di senso di appartenenza al mondo della bicicletta. Quindi sì, è un elemento costruttore anche di tribù urbane, se vogliamo. Essere e avere. Una sola espressione. Una sola espressione. Adesso te la do io. Eccola lei. Magnum. Santa polenta. Sì, baby! È quello che stavo aspettando! Santo cielo! È bellissima! Focus sui trend. Con la commedia modaiola più irriverente di sempre, Zoolander, di cui si dice tra l'altro sia in arrivo il sequel, apriamo il focus sui trend di questa settimana dedicato a Milano Moda Donna, la Fashion Week che ha visto sfilare le collezioni primavera-estate 2015. Cerchiamo di capire allora che cosa indosseremo, quali saranno le tendenze dominanti, i colori, i tessuti, gli stili che, al di là delle griff in passerella, detteranno la linea, per così dire, per molti dei capi che vedremo in vetrina nei prossimi mesi. Lo facciamo come sempre in compagnia degli esperti di Future Concept Lab, Valentina Ventrelli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Partiamo dai colori, Valentina, che cosa si è visto? Ma la moda negli ultimi anni ci ha senz'altro abituato a grandi contrasti, anche alla convivenza di cose molto lontane tra di loro. E quest'anno, diciamo, non sarà meno, nel senso che abbiamo da un lato un trionfo del nero, neanche un ritorno, una rielaborazione molto forte del nero, e dall'altro invece un'esplosione di colore assoluto che ci arriva dal mondo della natura, dei fiori, delle farfalle, per cui una sorta di esplosione naturale molto forte. Quindi molte stampe anche si sono viste. Moltissime stampe, come se in qualche modo il nero inglobasse tutta quella ricerca sulle nuove forme e dall'altro lato invece la grafica fosse il filtro per riproporre un desiderio di natura, un'opulenza molto forte, che però viene modernizzata e resa contemporanea da un grande lavoro proprio sulla grafica. Tra l'altro lo scenario natura, gardening, per così dire, continua ad affascinare anche la messa in scena per gli stilisti. Assolutamente, assolutamente, tanto che per i suoi 20 anni Marni ha realizzato alla Rotonda della Besana forse l'evento di cui maggiormente si è parlato in questa settimana della moda, anche accompagnata dalle solite polemiche di calendari, di grande fatica, che in qualche modo si è decompressa in questo evento nel Flower Market, dove la Griff di fatto ha messo in scena i fiori. Cioè non c'erano vestiti, c'era un tripudio di fiori, uno dei pochissimi eventi aperti alla città, che come sappiamo non è tradizione della moda. Volumi, lunghezze, tagli, quali indicazioni possiamo dare? Ma sicuramente un occhio agli anni 50, agli anni 70, un retro che però non è semplicemente guardare al passato, è anche un modo per rinfrescare, attraverso poi una grandissima ricerca di colore, di stampi, di nuovi materiali che di fatto rendono contemporanea l'immagine femminile. Il mondo della moda e del lusso, lo sappiamo, guarda sempre di più ad Oriente, perché lì ci sono ormai i consumatori di riferimento, ecco, arrivano sempre di più anche le influenze stilistiche da quel mondo, le contaminazioni. Certamente, ma è molto difficile parlare di etnico in questo mondo digitalizzato e estremamente, come dire, rapido, però senza dubbio ancora una volta le culture lontane assumono un ruolo importante nell'ispirazione della creatività a livello internazionale. L'italianità invece, Valentina, l'Italian Pride, no? Al di là, dicevamo, le polemiche sul calendario, Parigi di giorni ne ha quasi il doppio, insomma, quindi è il caso di sottolineare anche quali sono i punti forti restano del prodotto italiano. Lei ha appena detto il prodotto, perché poi alla fine non dimentichiamoci che tutti i grandi che sfilano magari a Londra, a Parigi, a New York, che sono sicuramente palcoscenici importanti, tutti però diciamo molti producono ancora in Italia, perché l'Italia ha ancora una filiera che nessun altro paese può vantare e ancora quella ricerca anche sulla realizzazione del prodotto, quell'artigianalità che poi è stata poi sapientemente riportata nei nostri distretti, nelle nostre fabbriche, che ancora regge su una qualità e su un mondo del lusso che comunque è ancora molto affascinante. Il consumautore. Accanto a me, come sempre, a questo punto, Francesco Morace, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Ogni settimana la riflessione sulle trasformazioni in atto nel mondo dei consumi, dell'economia e dell'impresa. Francesco, qual è il tema di oggi? Il tema di oggi è la differenza molto importante, proprio sociologica, tra la comunità, di cui giustamente oggi spesso si parla, e il bene comune. A me piacerebbe chiarire che sono due cose diverse, perché in termini sociologici la comunità, che fu studiata da Weber, che è uno dei grandi padri della sociologia, veniva contrapposta invece alla società. E qual è la differenza? Che la comunità ragiona in termini di sangue e di suolo, che vuol dire la famiglia al centro e il territorio al centro, mentre nella società è il contratto di ogni singolo individuo con un'entità superiore, lo Stato, e quindi la comunità, diciamo, dei cittadini, che alla fine decide le regole, non sono le comunità. Allora è molto importante capire che il bene comune oggi riguarda le società. Aaron Arnst, saggista, imprenditore, visionario, perché una quota di visionarietà ci vuole sempre, parla di purpose economy, quindi una nuova era economica la cui caratteristica sarà quella di connettere le persone appunto ad uno scopo comune. C'è un allineamento in questo momento, Francesco, sulla riflessione delle nuove economie? Settimana scorsa abbiamo parlato del libro di Rifkin. C'è un grande allineamento e finalmente, lo dico da sociologo, ci si comincia a comprendere al di là delle ideologie, perché dobbiamo ricordare che queste due visioni, quella più legata ad un'utopia di condivisione, quindi socialismo, comunismo, e dall'altro invece liberalismo economico, si sono confrontate, direi anche hanno guerreggiato per più di un secolo. Oggi si capisce che questa dimensione, cioè il bene comune, non è più né qualcosa da difendere in termini locali o familiari o familisti, né qualcosa da imporre ideologicamente con una visione comunista. E quindi si stanno aprendo delle opportunità per le aziende, per i cittadini, per i nostri consumatori, nuove, che sono un po' tutte da interpretare. Una sintesi che è arrivata nelle abitudini quotidiane del consumatore, perché questa trasformazione prevede anche un'offerta tutta nuova di prodotti e di servizi. Eh sì, perché nel bene comune esiste una sorta di circolo virtuoso in cui finalmente cominciamo a capire che un'azione o un consumo che ci soddisfa personalmente può essere anche un aiuto, ad esempio, all'ambiente o al gruppo di riferimento, che non è più la nostra famiglia o la comunità ristretta, ma è la società. Io sono molto convinto che la crescita possa essere felice e che non necessariamente ci debba essere decrescita felice, e questo riconoscere la società come luogo in cui questo avviene ci permette di immaginare servizi anche a costo zero che però aiutano le aziende ad essere credibili sul mercato. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, pagina programmi di Radio24.it per riascoltarla e scaricarla. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook, troverete i link, le immagini, tutte le informazioni aggiuntive su quello che vi abbiamo raccontato, in attesa di risentirci come sempre sabato prossimo alle 16.30. Non mancate, grazie in regia a Fabio Cantadori, un saluto da Maria Luisa Pezzali.